Roberto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. This morning the Supreme Court recognized that the Constitution guarantees marriage equality. In doing so, they've reaffirmed that all Americans are entitled to the equal protection of the law. That all people should be treated equally, regardless of who they are or who they love. Avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, volevo iniziare in un modo un po' diverso rispetto a una giornata connotata così tragicamente, con la dichiarazione di Obama, oggi il suo commento, subito dopo la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha deciso che in tutti i 50 stati americani le persone dello stesso sesso si possono sposare. Lui ha detto è una vittoria per l'uguaglianza e ha detto tutti devono essere tutelati dalla legge al di là di chi siano o di chi amino. Avete sentito l'ultima frase, così almeno ci solleviamo un po' gli animi, almeno per alcuni, penso, e spero per molti. E invece per il resto parleremo, vi immaginate, soprattutto appunto dei terribili attentati che ci sono stati oggi in quattro paesi addirittura. Sembra una coincidenza o una cosa progettata, poi si capirà soltanto più in là. Insomma, adesso sono partite le inchieste, le indagini. Ne parleremo naturalmente, ci concentriamo su questo. Se volete, per i vostri messaggi, come sempre, o alla pagina Facebook di Effetto Notte o attraverso gli SMS al 349-238-6666, potete commentare sia questa decisione storica della Corte Suprema Americana oppure dire quali sono le vostre sensazioni rispetto appunto a questa giornata così tremenda. Adesso si è alzata l'allerta un po' in tutti gli stati europei e non solo, rispetto a quello che è successo in Francia, in Tunisia, in Kuwait e anche in Somalia. E poi ci occuperemo anche della vicenda dei Marò. C'è una novità: l'Italia ha deciso di prendere l'iniziativa, qualcuno dice di azionare insomma il braccio di ferro e di avviare l'arbitrato internazionale. Poi capiremo che cosa significa l'arbitrato internazionale, a cosa può portare. Voi non perdete un solo minuto di Effetto Notte, intanto io vi racconto come sempre in sintesi la giornata. Terrorismo, Tunisia, Francia, Kuwait e Somalia nel mirino, l'attentato più grave nei resort tunisini. Marò, l'Italia attiva l'arbitrato internazionale, il governo annuncia chiederemo la permanenza di La Torre in Italia e il rientro di Girone. Stati Uniti, sì della Corte Suprema alle nozze gay in tutti gli stati americani, esplode la festa, Obama commenta è una vittoria. L'addio alla Dispoli per Laura Antonelli, centinaia di persone alle esequie dell'attrice. Bollette, luce e gas meno care dal 1 luglio, risparmi da 65 euro. Moto Mondiale, Gran Premio d'Olanda, Valentino Rossi conquista la pole position. Partiamo quindi ovviamente dalla serie di attentati di oggi, un giorno terribile, dicevo, in particolare per la Tunisia, ma non solo, come adesso ci racconta la nostra Cristina Carpinelli. Ciao Cristina. E ciao Roberta. Sì, oggi è l'anniversario della nascita del califfato e il mondo si è ritrovato a fare i conti con diversi attentati sanguinosi in Francia, in Kuwait e soprattutto, come dicevi, in Tunisia, dove si sono registrate almeno 37 vittime, 36 feriti per l'attentato avvenuto in due alberghi a Sousse, a 140 km a sud di Tunisi. Tra le vittime cittadini inglesi, tedeschi, belgi, al momento nessuna rivendicazione. Secondo le autorità responsabili dell'assalto sarebbero stati almeno due terroristi, uno dei quali armato di Kalashnikov è stato ucciso dalle forze di polizia, l'altro attentatore si è dato alla fuga ed è stato poi catturato. Secondo testimoni oculari i due sarebbero arrivati via mare a bordo di un gommone e avrebbero fatto irruzione sulla spiaggia. In Francia ora attacco di probabile matrice islamica in un impianto di gas industriale, questo a 30 km da Lione, una vittima decapitata e due feriti. Il bilancio confermato dal presidente francese Hollande in una conferenza stampa a Bruxelles. È stato invece rivendicato dall'ISIS l'attentato contro una moschea sciita a Kuwait City. L'attacco è avvenuto durante la preghiera del venerdì, il secondo di Ramadan. Il ministro dell'interno dice che le vittime sono 25, i feriti 202, tra i morti soprattutto uomini e bambini. Grazie Cristina Carpinelli. E naturalmente questi attacchi hanno suscitato, potete immaginare, shock e preoccupazione anche in Italia. Anche nel nostro paese l'allerta è salita per le misure di sicurezza, come ci racconta in diretta Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buonasera, solidarietà ai parenti delle vittime, ai paesi colpiti dal terrorismo, dalle massime cariche dello Stato. L'Italia, scrive il Presidente del Consiglio Renzi, abbraccia governi e popoli di Francia, Kuwait, Tunisia, tutti uniti contro l'odio e il terrore. Analisi quindi da parte del Premier di quanto avvenuto, si dimostra che il terrorismo non è fatto solo di attacchi in grande stile, ma anche da parte di piccole cellule che si muovono con mezzi non particolarmente ingenti, ma con piccola organizzazione un'emozione e convinzione molto forte. Dibattito in Italia che già vira però sui livelli di sicurezza interna e sul fenomeno dell'immigrazione. L'estremismo islamico va combattuto ovunque, con ogni mezzo, dice il leader della Lega Nord Salvini. Basta parole, più armi, attacca sempre dall'opposizione Gasparri, Forza Italia. Sdegno per gli attacchi terroristici dal Movimento 5 Stelle, che chiede che l'Italia rafforzi le frontiere. Il tema sicurezza deve essere centrale, la posizione del Partito Democratico. Il ministro dell'Interno Alfano replica: non c'è nessun paese a rischio zero, ma non ci faremo condizionare dalla paura, solo così vinceremo la sfida al terrore. E proprio sul fronte sicurezza dal Viminale è stata inviata ai prefetti e ai questori la circolare che dispone il più alto livello di allerta. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, e siamo alla vicenda dei Marò. L'Italia tenta una prova di forza sul caso dei due fucilieri di Marina. Il governo ha attivato l'arbitrato internazionale, vi dicevo, sul loro caso di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Vi dicevo che poi con un ospite cercheremo di capire bene in che cosa consista questo arbitrato internazionale, che cosa ci si può aspettare, cosa si può sperare. La prefettura, ci spostiamo a Roma, ha deciso di mettere il sindaco Ignazio Marino sotto scorta. Il provvedimento è arrivato dopo la lettera di minacce con all'interno un proiettile indirizzato a Marino, intercettata mercoledì. Quelle minacce nei confronti di Marino sono credibili ed è per questo che le misure di sicurezza saranno rafforzate. Così ha deciso il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, riunitosi oggi dopo l'episodio della busta arrivata a Fiumicino contenente un proiettile e un messaggio minatorio. Tradotto, Marino avrà una scorta, misura assegnata nei giorni scorsi anche a Matteo Orfini, commissario del PD a Roma, ma rifiutata in passato più volte dal primo cittadino. Intanto il sindaco, forte del voto ottenuto ieri in Campidoglio sulla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024, è più che mai determinato ad andare avanti. Non credo che Mafia Capitale potrà offuscare la corsa alle Olimpiadi. Noi non molliamo, abbiamo una trasparenza straordinaria, ma la sua posizione resta sempre in bilico, tant'è che dal governo non è arrivata ancora una dichiarazione di incoraggiamento né una frase di congratulazione sull'avvio dell'impresa olimpionica. Insomma, il sindaco appare sempre più solo, mentre al largo del Nazareno si aspetta la relazione del prefetto Gabrielli sull'eventuale presenza di infiltrazioni mafiose in Campidoglio, un atto considerato uno spartiacque per decidere se, quando e come il primo cittadino uscirà di scena. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Ora l'economia sale, la fiducia dei consumatori e delle imprese italiane. L'indice rilevato dall'Istat segna un progresso di oltre 3 punti per i primi mesi, di circa 2,5 per gli altri, che toccano il livello più alto dal giugno 2008. Segnali positivi da tutte le componenti, ma le variazioni più marcate le mostrano il clima economico e quello futuro, mentre quello personale e quello corrente presentano incrementi più lievi a proposito di fiducia. E poi per la cronaca, i funerali di Laura Antonelli ci sono stati, con l'addio alla Dispoli. Centinaia di persone erano alle esequie dell'attrice nella cittadina del litorale romano. Il sindaco Pallotta ha postato su Facebook un'immagine di lei da ragazza, scrivendo: la più vera. Simone Cristicchi, il cantante, uno degli ultimi veri amici dell'Antonelli, alla quale aveva dedicato la canzone Laura, l'ha voluta ricordare come una bambina fragile, sola e indifesa. Al funerale, fra gli altri, sono intervenuti Lino Banfi e l'attrice Claudia Cole. A proposito invece di diritti civili, Stati Uniti, la sentenza della Corte Suprema che ha dato il via libera a matrimoni fra persone dello stesso sesso in tutti i 50 stati che compongono gli Stati Uniti. La sentenza era molto attesa, ha stabilito che il matrimonio è un diritto garantito dalla Costituzione anche alle coppie omosessuali. Questo significa che tutti gli stati della federazione dovranno permettere a due persone dello stesso sesso di sposarsi e riconoscere i matrimoni omosessuali contratti in qualsiasi parte degli Stati Uniti. Obama ha detto: è una vittoria in nome dell'uguaglianza. Vedo intanto arrivare i vostri messaggi su questo argomento al 349-238-6666, anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, le leggeremo dopo. Intanto c'è una buona notizia per quanto riguarda le bollette, quelle della luce e del gas. Dal 1 luglio saranno un po' meno care. Per l'elettricità la spesa media sarà di circa 506 euro, con un calo dell'1,6% e un risparmio quindi di 8 euro. Per il gas la spesa subirà una riduzione del 4,8%, corrispondente a un risparmio di circa 57 euro, quindi complessivamente circa 65 euro all'anno. Chiusura con lo sport. Motomondiale: durante la quarta e ultima sessione di prove per il Gran Premio di Assen, Olanda, il più veloce è stato lo spagnolo Marquez. Il motociclista della Honda ha preceduto la Yamaha di Valentino Rossi e del connazionale Jorge Lorenzo. Dietro di loro Dani Pedrosa, l'altro pilota della Honda. E arriviamo così ai mondiali femminili sempre in corso, li abbiamo seguiti più o meno dall'inizio, i mondiali femminili in Canada con la nostra Martina Angelini, commentatrice di Eurosport, esperta di calcio femminile. Martina, a che punto siamo arrivate? Sì, ciao Roberta, buonasera. Siamo arrivati che stasera finalmente cominciano i quarti di finale. Ecco. C'è Germania-Francia, che è una partita attesissima che avrebbe potuto in teoria essere addirittura la finale tra due fra le squadre più forti del mondo. E poi nella notte all'1:30 ci sono gli Stati Uniti che affrontano la Cina. Io volevo riagganciarmi a quello che tu hai appena detto a proposito della storica sentenza degli Stati Uniti sul matrimonio ugualitario, perché il presidente Obama, tra l'altro, su Twitter ogni volta che giocano gli Stati Uniti manda un tweet di incoraggiamento alle ragazze. Questo per far capire quanto però sia davvero quanto sia importante il calcio, e anche quanto Obama sia capace di sostenere, di non fare discriminazioni, e anche di essere, come presidente dello stato più potente del mondo, anche saper essere semplice, no? Sì, poi lui ha due figlie che, come tutte le ragazzine americane, giocano a calcio a scuola. E l'attaccante degli Stati Uniti, Abby Wambach, che è uno degli attaccanti più forti del mondo, che è sposata con una donna che 2 anni fa ha sposato la sua compagna alle Hawaii. E oggi su Twitter ha scritto: mai come oggi sono fiera del mio paese, e nella notte speriamo di essere noi a rendere fieri voi. Quindi speriamo. Esatto. Tanto la nostra nazionale non c'è, possiamo anche tifare Stati Uniti, sì, proprio, insomma, sì, no? Esatto, possiamo anche tifare loro, quindi vediamo se gli Stati Uniti riusciranno appunto a rendere orgoglioso il proprio paese nella notte e il presidente Obama. Ci aggiornerai lunedì allora, Martina? Assolutamente sì. Grazie Martina Angelini. Ciao, buon calcio su Eurosport, potete seguire poi le partite dei mondiali femminili su Eurosport. Intanto io seguo anche i vostri messaggi, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre a vostra disposizione giorno e notte, o anche gli sms al 349-238-6666. A proposito della storica sentenza di cui si parlava negli Stati Uniti, un ascoltatore scrive: evidentemente i giudici americani sono tutti culattoni, che schifo, dice. E poi invece Daniele da Pistoia, e ci tiene a dire in viaggio per Forlì, a specificare in viaggio per Forlì: considerando che gli estremisti islamici, dice, uccidono le persone omosessuali, dare loro, quindi alle persone omosessuali, uguali diritti è una risposta concreta a questa gente che vorrebbe riportare nel Medioevo il mondo. No, dice Daniele, effettivamente c'è da dire che la Tunisia è l'unico paese arabo in cui liberamente anche si svolgeva, per esempio, il Gay Pride. Questo può non essere un caso. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Intanto aggiorniamo chi viaggia, tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Riprendo, prima di ricordarvi le notizie, di passare man mano i temi con gli ospiti, i vostri messaggi, per esempio sulla pagina Facebook di Effetto Notte, a proposito della sentenza della Corte Suprema americana sui matrimoni gay, che ha detto e ha deciso che sono possibili in tutti gli stati americani. Stefano scrive: a credere nell'uguaglianza imposta per legge, viva la libertà di pensiero e la scuola privata finanziata anche con i soldi delle mie tasse. Ilaria dice: visto che ci si taccia come popolo di copiare sempre gli americani, questa potrebbe essere una magnifica occasione da cogliere, ma temo non accadrà, almeno non in tempi brevi, anche se bisogna dire che almeno sulle unioni civili Renzi aveva detto che entro l'estate sarebbe passata la legge, almeno sarebbe passata, avrebbe cominciato il suo cammino, il suo iter parlamentare. Vedremo. Cristiano dice: la spinta storica dell'umanità verso l'uguaglianza è una spinta inarrestabile, il suo perno è la democrazia, una vera, alta e autentica democrazia. Adesso passiamo alle notizie più importanti, se non avete sentite prima. Terrorismo, Tunisia, Francia, Kuwait e Somalia nel mirino. L'attentato più grave è stato nei resort tunisini. Si parla di attentati globali oggi. Marò, l'Italia attiva l'arbitrato internazionale. Il governo annuncia: chiederemo la permanenza di Latorre in Italia e il rientro di Girone dall'India. Stati Uniti, sì della Corte Suprema alle nozze gay in tutti gli stati americani. Esplode la festa e Obama commenta: è una vittoria dell'uguaglianza. L'addio alla Dispoli oggi a Laura Antonelli. Centinaia di persone erano ai funerali dell'attrice. C'è una buona notizia per le bollette: luce e gas meno care dal 1 luglio, risparmi da 65 euro. E per lo sport, il moto mondiale, il Gran Premio d'Olanda, Valentino Rossi conquista la pole position. Quindi dicevamo appunto che oggi è stata una giornata connotata da attentati, da violenze, da morti, a partire dal terribile attentato che c'è stato in Tunisia, la strage di quasi 30 morti, l'attentato in Kuwait in una moschea durante la preghiera del venerdì che ha causato almeno 25 morti, l'attacco in Somalia da parte di militanti di Al-Shabaab, che è una milizia islamica legata ad Al-Qaeda, anche lì 30 vittime. Ma partiamo dall'attentato che c'è stato anche proprio nel cuore dell'Europa, in Francia. Si tratta di un attacco di probabile matrice islamica, anche qui in un impianto di gas industriale nella Isère, 30 km da Lione in Francia, con una vittima, un uomo che è stato decapitato con un rito molto macabro, con la testa poi infilzata in un cancello, le scritte arabe sulla faccia, e poi due feriti. Questo insomma è il bilancio. Il presidente francese François Hollande ha confermato, ha detto praticamente che l'attacco di matrice islamica, ha definito di natura terroristica, ecco, diciamo questa è un po' la definizione. Intanto la procura di Parigi, la sezione antiterrorismo, ha avviato un'indagine. Ne parliamo con il corrispondente del Sole 24 Ore della Francia, Marco Moussanet. Ciao Marco. Buonasera. Diciamo, naturalmente quello della Tunisia è il più grave, però questo in Francia, che sentiamo più vicino, inevitabilmente riapre un po' la paura, il senso di vulnerabilità, di impotenza, no? Anche da parte degli europei. Ma sì, non c'è dubbio che la Francia questa mattina ha di nuovo avuto paura. La paura che viene soprattutto dall'apparente impossibilità di prevedere attacchi terroristici da parte di persone che, come in questo caso, non avevano precedenti penali, non erano sospettate, come dire, delle che vengono raccontate come tranquille e normali dagli ambienti in cui vivono. Ecco, questi sono gli attacchi che in realtà fanno più paura. Yassine Salih, l'autore dell'attacco di questa mattina e dell'uccisione del suo datore di lavoro, con la macabra esposizione della testa sulla recinzione dell'azienda di gas industriale che voleva far saltare in aria, era una persona di questo genere, era uno di questi cosiddetti cani sciolti che non appartengono a organizzazioni strutturate, difficili da individuare, da controllare, da seguire, e che a un certo punto improvvisamente, nel modo più brutale possibile, escono dall'anonimato e commettono questi terribili attentati. Ce ne si era già accorti con la strage di Charlie Hebdo, no? Che c'è, ma sì, poca, infatti, possibilità di controllare. È ovvio che la Francia è in prima linea con i militari in Africa, gli aerei che bombardano le postazioni dell'ISIS in Siria e in Iraq, e un modello di integrazione che è sostanzialmente fallito e che è rifiutato, respinto dalle nuove generazioni, soprattutto nelle grandi periferie urbane, ma anche in molti luoghi della provincia. Lo stesso modello che era accettato dai loro padri, dai loro nonni, oggi viene rifiutato, e questo crea un contesto di propensione all'indottrinamento, al reclutamento a parte di Islam, di imam radicali, estremisti che predicano le moschee di questi luoghi, e questi sono i risultati che si ottengono. Certo, è successo con Merah ai tempi di Toulouse, è successo con Kouachi a Charlie Hebdo, è successo con Koulibaly sempre a Parigi con l'attacco all'ipermercato Pasher. Tutti i francesi che dovevano essere integrati, diciamo, e poi invece... Sì, con persone che fino a qualche ora prima, qualche giorno prima, erano apparentemente delle persone, come dire, che noi definiremo normali, delle persone che vivono con noi, lavorano con noi, vicini di casa, il nemico in casa. È questo che spaventa soprattutto in questo momento, in queste situazioni francesi. Grazie Marco Moussanet. Grazie a voi. Ciao Marco. E proseguiamo a parlarne con Stefano Torelli, ricercatore dell'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, che saluto. Buonasera Torelli. Buonasera, buonasera a tutti voi. Quindi si parla di, appunto, oggi varia intitolato attacco globale del terrore nel giorno del venerdì, il giorno sacro per l'Islam durante il mese, tra l'altro, del Ramadan. Lo ricordo per chi avesse acceso adesso, ma insomma ormai l'avete sentito: durante il giorno colpite da attentate 3 nazioni, anzi 4, con la Somalia, ma in particolare Francia, Kuwait e soprattutto la Tunisia, dove si sono registrati, adesso vedo l'ultimo bilancio, dovrebbe essere 37 morti e diversi feriti. Evidentemente i feriti erano molto gravi, perché inizialmente si parlava di meno 31 morti nella città di Susa. L'attentato segue tra l'altro quello, vi ricordate, del museo del Bardo di Tunisi dello scorso 18 marzo, che costò la vita a 22 persone. Susa tra l'altro è la terza città della Tunisia e sono stati colpiti due alberghi. E i testimoni parlano di 3 o 4 uomini armati di Kalashnikov che hanno ferito, che hanno cominciato a sparare sbarcando sulla spiaggia. Adesso non è chiaro se siano sbarcati sulla spiaggia, se siano arrivati in altro modo, poi vedremo man mano se arriveranno aggiornamenti, più dettagli. Insomma, chi ha potuto tra i turisti però per scampare alla strage si è chiuso nelle stanze, nei bungalow. Vi ricordo che sono soprattutto turisti di nazionalità britannica, belga e tedesca, da quello che si sa finora. Torelli, intanto, questa è una precisa strategia rivendicata anche in vari documenti programmatici dell'ISIS, di colpire per esempio i turisti che sono inermi, anche per colpire proprio l'economia di un paese come in questo caso quello della Tunisia? Sì, chiaramente sì, ormai è evidente che la strategia mira a colpire, cioè mira a questo doppio obiettivo, appunto, perché in un colpo solo, appunto, colpisce al cuore l'economia tunisina, che a differenza di altri paesi dell'area non ha ingenti risorse naturali e vive proprio molto anche di turismo, e allo stesso tempo però colpisce target occidentali, colpisce turisti, colpisce cittadini occidentali. Dopo l'attentato del Museo del Bardo si diceva che appunto stavamo assistendo a questa escalation, nel senso che in Tunisia dopo la cosiddetta primavera araba, dopo la caduta di Ben Ali, vi sono stati diversi episodi di terrorismo, però erano sempre stati confinati in aree periferiche, soprattutto al confine con l'Algeria, e soprattutto avevano colpito quasi sempre obiettivi militari, istituzionali, tunisini stessi, soprattutto militari. Dall'attentato del Bardo in poi, adesso viene da dire, purtroppo, perché l'attentato del Bardo non è più a questo punto un caso isolato, ebbene sembra che si sia alzato il tiro, e quindi l'obiettivo è diventato appunto non più centri periferici, ma centri urbani tra l'altro di primaria importanza, e soprattutto obiettivi turistici. E quindi, come dicevo prima, colpire l'economia tunisina al cuore e allo stesso tempo colpire cittadini occidentali. Questo sembra essere in questo momento il messaggio che queste cellule jihadiste in Tunisia stanno lanciando. Torelli, Alfano, il ministro dell'Interno, ha detto nessun paese è a rischio zero, a questo punto possiamo immaginarlo, e ha detto abbiamo ulteriormente elevato il livello d'allerta, e vedo anche altri paesi come la Spagna per esempio. Qualcuno invoca l'intervento dell'ONU, dicono l'ONU assuma tutte le iniziative necessarie per spezzare una spirale di sangue che sembra inarrestabile. Fedriga per esempio, capogruppo alla Camera della Lega, dice il rischio islamico è troppo vicino, subito controlli anche a discapito dei diritti degli islamici. Come si, intanto, per quanto riguarda l'ONU davvero può fare qualcosa? Nel senso, finora si sarebbe potuto fare di più, oppure queste schegge impazzite possono sbucare così come funghi? Sì, esatto, penso che è un po', è veramente molto molto generica affermazione, insomma, pensare che l'ONU possa intervenire adesso per far qualcosa, bisognerebbe innanzitutto capire dove si deve intervenire, bisognerebbe capire se c'è un teatro di operazione insomma da colpire o in cui agire più di altri, perché faccio un esempio: per esempio, si è tanto parlato chiaramente anche dal nostro punto di vista, voglio dire, di un ipotetico intervento in Libia, ed è vero che la Libia oggi è una sorta di santuario di jihadisti, gruppi jihadisti locali, ma è altrettanto vero che sappiamo benissimo che la minaccia originale, se così possiamo dire, arriva piuttosto dall'Iraq e dalla Siria. Ma allo stesso tempo, e qui si capisce quanto è complicato quindi capire come intervenire, dicevo, allo stesso tempo è altrettanto vero che, anche se guardiamo per esempio anche soltanto la dinamica degli attentati di oggi in Francia e in Tunisia, in tutti e due i casi si tratta di persone di nazionalità di residenza di quel paese, quindi un francese in Francia, due o tre o quattro, ancora non è chiaro, tunisini in Tunisia. Quindi di fronte a un fenomeno simile, che è più un fenomeno appunto di radicalizzazione interna di alcune cellule, di alcuni individui all'interno di alcuni paesi, ecco, viene da chiedersi di fronte a questo fenomeno cosa vuol dire intervenire direttamente per far qualcosa, invocando addirittura un organismo internazionale come l'ONU. È molto difficile, chiaramente ogni paese in questo momento sta cercando e deve chiaramente cercare di prendere delle precauzioni, soprattutto al proprio interno. Questo è un elemento, a mio avviso, importantissimo, fondamentale, anche quando nel dibattito nazionale, cioè in Italia, si parla spesso per esempio della connessione tra immigrazione e terrorismo, di chiudere le frontiere e così via. Ma in realtà sappiamo benissimo che la paura vera che vi è sostanzialmente è che appunto è il famoso nemico in casa, diciamo così. E quindi è di fronte a questa minaccia che bisogna capire cosa fare. Torelli, a questo proposito, l'ultima domanda che le faccio, citavo prima un esponente della Lega che diceva appunto che non si può più far finta di nulla, dice subito controlli a tappeto nelle comunità islamiche, no. Chi si comporta bene non ha nulla da temere, chi invece ha qualcosa da nascondere urlerà contro la violazione dei diritti. Lei è d'accordo? Pensa che possa essere una misura fattibile, efficace? Sinceramente non, diciamo, mi sembra chiaramente una provocazione e un'opinione, diciamo, molto politicizzata, e diciamo io da analista solitamente insomma non entro in dibattiti politici. Chiaramente io penso che sia un tipo di affermazione che insomma non abbia una logica reale, diciamo, perché cosa vuol dire chi si comporta bene, chi si comporta male? Evidentemente, ripeto, è una provocazione chiaramente politica e non ha alcun tipo di valenza logica, a mio avviso. Grazie intanto Stefano Torelli, ricercatore dell'ISPI. Grazie a voi. Grazie, buona serata. Arrivederci. E prima di lasciarci, poi di riprendere questo tema, ma anche poi di parlare dei Marò dopo, volevo guardare ancora i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effettonotte, gli sms al 349-238-6666. Scrive un ascoltatore o ascoltatrice, non si firma, di continuo parliamo di stragi islamiche, è una guerra in corso, bisogna decidersi a intervenire, anche se ancora non c'è chiaro esattamente come. E poi questo è un bel messaggio che riguarda il calcio femminile. Qualcuno scrive: dalla gaffe di Belloli, vi ricordate, dirigente della Lega Dilettanti, che aveva detto non diamo soldi a queste quattro lesbiche, a proposito del calcio femminile, che poi dopo è stato spinto le dimissioni. Avevo intervistato su questo una dirigente del calcio femminile che era stata testimone della sua frase e le avevo promesso in diretta che mi sarei occupata di calcio femminile, visto che viene trattato così malamente. Dice: questo messaggio è nato da quella gaffa, l'interesse di Effettonotte per il calcio femminile, la conferma che dall'etame nascono i fiori, a volte sì. A dopo. Sta per spuntare un campo di grano tra i grattacieli milanesi. Abbiamo chiesto a quest'artista di dare questo segnale al mondo: la terra deve essere anche usata per il tema dell'Expo che inizia il pianeta. Maturerà o non maturerà? Perché o è il solito ritardo di Expo? Lei come sindaco di Cernobbio rivendica la paternità dell'idea di fondere questi comuni, esatto, poi sul nome esatto, si vedrà. Sul nome si vedrà, prima di tutto è una questione legata al miglioramento dei servizi. Ma si potrebbe far scegliere il nome anche ai cittadini? Assolutamente sì, sarebbe una base, forse sarebbe l'idea migliore. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini, il sabato alle 7.30 e la domenica alle 8.30 su Radio 24. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi con Effetto Notte fino alle 22 e anche i vostri messaggi continuano ad arrivare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666 su vari argomenti, dalla sentenza storica della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha deciso che in tutta America, in tutti i 50 stati è possibile il matrimonio omosessuale. Max scrive: sono convinto che questa sia l'epoca dell'anticristo, il mondo ridotto ormai è un delirio, è una fogna. Adriano da Padova dice: in fatto di diritti gli americani sono più avanti, in Italia, in Portogallo e in Spagna c'è ancora troppa influenza clericale negli stati. In realtà, ti do una buona notizia Adriano, visto che sei diciamo di questa linea, Portogallo e Spagna da qualche anno che hanno i matrimoni gay e l'Italia che è un po' indietro. Dopodiché Vittorio dice invece sulla questione degli attentati: c'è modo di prevenire ma nessuno lo vuole ammettere, bisogna impedire ai musulmani l'ingresso in Europa. Mi pare un po' difficile e poi bisognerebbe anche distinguere da quelli che hanno ottime intenzioni dai terroristi, insomma non bisogna confondere il termine musulmani con terroristi, sono gli integralisti musulmani. Poi Sus dice: un altro ascoltatore, a 60 miglia dalle spiagge di Lampedusa sono ormai alle porte. Qualcun altro dice: chi gli ha dato le armi? Facciamo questa domanda, non so se rivolgerla poi ai prossimi ospiti, ma intanto vi ricordo le notizie principali della giornata. Naturalmente gli attentati in Tunisia, in Francia, in Kuwait, in Somalia, ben quattro stati, si parla di attentati globali. L'attentato più grave è avvenuto in due resort tunisini, ci sarebbero almeno 37 morti a Sus. E poi Marò, l'Italia si è decisa ad attivare l'arbitrato internazionale, il governo annuncia di aver deciso di chiedere la permanenza di La Torre in Italia e anche il rientro di Girone. Stati Uniti, avete sentito, sì, della Corte Suprema le nozze gay saranno possibili in tutti i 50 stati americani, Obama commenta: è una vittoria per l'uguaglianza. L'addio alla Dispoli e a Laura Antonelli, oggi ci sono stati i funerali dell'attrice, centinaia di persone hanno partecipato. Moto Mondiale, Gran Premio d'Olanda, Valentino Rossi conquista la pole position. Saluto adesso dalla Tunisia l'inviato speciale del Sole 24 Ore, Roberto Bongiorni. Ciao Roberto. Buonasera a tutti. Sei arrivato in Tunisia appunto per seguire da vicino quello che sta succedendo. Hai avuto già notizie, è vero che sei diciamo atterrato probabilmente da non molto. Intanto dall'aeroporto, anche arrivando lì, che clima hai trovato? Sì, sono arrivato un paio di ore fa e ho avuto già un po' la percezione di quello che i tunisini stanno vivendo, perché ricordo che il Ramadan qua è terminato da poco e la gente è tornata ad affollare i bar dell'Avenue Bourguiba, il centro della vita serale di Tunisi, ma il volto di tutti i tunisini è molto triste, sono preoccupati, si fermano, parlano con noi e insomma loro non se lo aspettavano proprio, sono avviliti per quanto sia successo ai turisti, perché sono comunque una delle fonti di entrate e soprattutto di impiego per la Tunisia, certo. E sono molto preoccupati per le sorti della Tunisia, per le sorti del turismo, per le sorti dell'economia e per la stabilità della Tunisia, che comunque ricordo si trova vicino alla Libia e è un paese che l'ISIS non ha mai nascosto di voler successivamente infiltrare. Hai provato a parlare con qualcuno di Sus del... Però con qualcuno di Sus non ci sono riuscito. Ho parlato con gente soprattutto qua a Tunisi, però ho parlato anche con delle fonti vicino agli ospedali, alla polizia. Si conferma questo bilancio, che però è ancora provvisorio, come il numero di attentatori, il comando e le modalità dell'attacco. Però i 37 sono i morti, si parla di almeno una decina di turisti stranieri uccisi. L'ultimo bilancio parlava di 5 cittadini tunisini, un belga, 5 tedeschi, 4 britannici, 3 francesi, però si parlava anche di cittadini cechi e polacchi, uno è stato confermato dall'Irlanda. Insomma è ancora tutto provvisorio, domani si avrà qualche notizia più certa. Certo che a 3 mesi dalla strage del Bardo e nel venerdì, che è il giorno più sacro del mese di Ramadan, insomma il paese è stato colto veramente alla sprovvista, poi proprio all'inizio della stagione estiva, insomma è una tragedia sia per le vittime, le famiglie delle vittime naturalmente in primo luogo, ma anche per un paese che ricordo che è l'unico paese travolto nella primavera araba ad aver avviato e anche concluso un processo di transizione trasparente e credibile. Ecco, questo è un po' un peccato. E quindi proprio per questo probabilmente anche più nel mirino. Roberto Mongioni, io ti ringrazio e ti auguro buon lavoro allora lì in Tunisia. Grazie a tutti, grazie. A domani, arrivederci. Ciao Roberto. Gianandrea Gagliani, buonasera Gianandrea, direttore della rivista Analisi Difesa ed esperto di questioni militari. Allora, ci sono state varie, diciamo, varie versioni di come questi terroristi siano arrivati sulla spiaggia attaccando i turisti dei due resort. No, c'è qualcuno, addirittura qualcuno ha parlato di una mongolfiera, non so se possa essere stato un elemento di distrazione o cosa. Qualcuno dice, diciamo, le versioni più diffuse, quello dello sbarco con dei gommoni sulla spiaggia. Qualcun altro invece dice no, passeggiavano tranquillamente, non è arrivato nessun gommone e a un certo punto hanno cominciato a sparare. Allora sentiamo intanto questa testimonianza di una donna tunisina che lavora lì nel ristorante italiano di uno di questi due resort, Le Scala da Vittorio, a pochi passi dal resort, e si sfoga al microfono della nostra Camilla Bruno e dice: non vale più la pena vivere in Tunisia. Questo terrorista che è arrivato con le pistole, hanno detto che lui ha guardato tutte le persone che sono lì al mare e ha preso la pistola e ha fatto scendere tutto. E fendo il conto, tutto il mondo hanno restato così bocca aperta. E voi pensate che non ci siano italiani tendenzialmente tra le vittime? Per quello che ho sentito, no, italiani no. Grazie al cielo. Mi dispiace anche per gli altri, sinceramente, mi dispiace tanto perché sinceramente qui sembrerebbe un cimitero qui a Cantawi. Tutti sono tristi, tutti hanno paura, e a parte quello, perché sono due ragazzi che hanno fatto questo, non sono mille. E voi stasera siete aperti? Sinceramente per me, come donna tunisina, non mi fanno paura, perché queste gente sono, scusa per le parole, non hanno l'orgoglio di essere esseri umani. Io continuo a lavorare al mio peso, testa alta, e non ho paura di nessuno. Eccoci Gianandrea Gagliani, quindi è capace di parlare italiano perché gli italiani sono turisti che abbastanza frequenti per quanto riguarda la Tunisia, no? Anche se per ora, per fortuna, almeno loro sembra che non ci siano tra le vittime. Beh, al bardo c'erano anche italiani. C'erano anche italiani, naturalmente. Senti, come possono, adesso naturalmente bisognerà vedere le indagini come proseguono, ma è possibile che davvero abbiano camminato lungo la spiaggia? Magari si vede che hanno nascosto le armi durante la notte, dei Kalashnikov, non è che passano inosservati, no? Ma non passano inosservati in Tunisia, ma entrano tranquillamente armi dalla vicinissima Libia, quindi addirittura non è confermato, ma molte fonti dicono che a Sabratta, sulla costa libica, a 45 chilometri dal confine tunisino, ci sia un campo di addestramento dello Stato Islamico nel quale si sarebbero addestrati fra i 3.000 e 4.000tunisini che combattono con le milizie dello Stato Islamico proprio in Libia. Insomma, tutte fonti, voci difficili da verificare, difficili da andare là a contare quanti siano veramente quelli addestrati, quanti siano i tunisini, però diciamo che quella frontiera è molto permeabile. Possibile un attacco dal mare, uno sbarco, perché? Perché soprattutto dopo l'attentato del Bardo, tutti questi resort che sono frequentati da stranieri, così come gli edifici pubblici, sono presidiati da forze di sicurezza, anche guardie private degli hotel armate, e quindi entrare e raggiungere la spiaggia venendo dalla strada, quindi attraversando gli ingressi degli hotel armati, è molto più difficile che invece magari arrivare con un gommone oppure passeggiare per qualche chilometro sulla spiaggia ed entrare. Certo, nel momento in cui si arriva sulla spiaggia e si è di fronte turisti inermi, armati di pistola o di Kalashnikov, è molto facile fare una strage prima che qualcuno armato possa intervenire a ostacolarti o a fermarti. Gianandrea Gagliani, rispetto a chi dice è possibile che non si possa intervenire in nessun modo, è possibile che non si possa anche dall'alto con i potentissimi eserciti, per esempio americani, o che l'ONU li raccolga tutti sotto la propria egida e riuscire a fare la guerra intelligente, come si diceva per esempio quando scoppiò per esempio in Iraq, no? Di mirare delle postazioni, delle concentrazioni dei terroristi islamici dell'ISIS. Ma guarda, la guerra che stanno facendo la coalizione contro l'ISIS in Iraq e in Siria è una barzelletta, perché la metà dei membri della coalizione tifa per l'ISIS piuttosto pur di non vedere Bashar Assad sopravvivere, o la Turchia in questo caso spera che l'ISIS riesca a fare le scarpe ai curdi, così non dovrà fare i conti con uno Stato curdo che aspira a diventare Stato ai suoi confini. Insomma, quella guerra è piena di ambiguità da parte di tutti gli stessi. Di doppio giochisti, quindi. Ma di doppio giochisti, hai detto la parola giusta. Insomma, e lo è ancora di più quando ci spostiamo da quel teatro operativo che è il più importante, quello di Iraq e Siria. Insomma, in Libia sappiamo benissimo dove sono le basi dello Stato Islamico. Contro controllano 150 km di costa intorno a Sirte. Possibile che nessuno pensi di tirare una sola bomba in testa all'ISIS in Libia, ma facciamo finta o un po' ne tiriamo in Iraq e Siria. Insomma, non dobbiamo meravigliarci se c'è una destabilizzazione che colpisce anche la Tunisia, che colpisce l'Algeria, la Tunisia forse è un po' più debole, che colpisce l'Egitto. Anche lì ci ricordiamo gli attentati per colpire il turismo, gli occidentali, perché se colpisce il turismo in Egitto come in Tunisia, indebolisci quel governo perché indebolisci l'economia. Insomma, le strategie le conosciamo già, quelle dell'ISIS sono quelle che utilizzò Al-Qaeda. Il problema è che rispetto al passato, rispetto ad Al-Qaeda, mi pare che ci sia meno volontà, meno disponibilità a impegnarsi anche militarmente. Il paradosso è una flotta europea che dovrebbe contrastare i trafficanti di esseri umani e poi non si capisce bene come possa fare, non lo sta facendo, con una portaerei, l'italiana Cavour, e nessuno che vada a bombardare l'ISIS in Libia, dove in realtà sta diventando un problema sempre più serio. Sconfortante, insomma, se le cose stanno così. Comunque intanto grazie Gianandrea Gagliani. È un piacere, a presto. Ciao Gianandrea. Buona serata. Adesso, prima di aggiornare chi sta viaggiando, cosa vedo qui? Un aggiornamento. Renzi che dice firmato il decreto di sospensione di De Luca. Questo è un aggiornamento, era durante il Consiglio dei Ministri, si aspettava effettivamente questo atto. Anche se ieri, sapete che Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha avuto la sentenza favorevole da parte del Tribunale di Napoli, quindi non sarà sospeso, anche lui sottoposto alla legge Severino, non sarà sospeso per il momento perché si attende poi la decisione definitiva della Corte Costituzionale a metà ottobre. Ieri il costituzionalista Ceccanti, qui effetto note, ha detto che la stessa cosa a questo punto varrà anche per Vincenzo De Luca, governatore della regione Campania, però intanto è stato sospeso perché su di lui grava la legge Severino. Poi vediamo se lo stesso tribunale di Napoli, visto che è sempre della Campania, deciderà la stessa cosa per lui come ha fatto per De Magistris. Ci lasciamo momentaneamente, voi intanto continuate con i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Note sia al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E adesso, prima di parlare dei Marò, ci sarà lo spazio europeo. Se avete acceso la radio in questo momento, vi ricordo che la giornata è stata connotata da questo attacco globale. Quattro stati nel mirino del terrorismo islamico, la Francia, il Kuwait, la Somalia, in particolare la Tunisia. L'attentato più grave infatti è stato nei resort tunisini, con almeno 37 vittime al momento. Il bilancio purtroppo è ancora provvisorio. In Marò l'Italia attiva l'arbitrato internazionale, tra poco cercheremo di capire di cosa si tratta. Negli Stati Uniti, decisione storica della Corte Suprema sulle nozze gay. In tutti gli stati americani saranno possibili matrimoni tra persone dello stesso sesso. Obama commenta: è una vittoria per l'uguaglianza. E poi oggi sono stati i funerali alla Dispoli per Laura Antonelli, centinaia di persone hanno partecipato alle esequie dell'attrice. Per il moto mondiale c'è il Gran Premio d'Olanda, dove Valentino Rossi conquista la pole position. Europa 24 notte. Da dove vengono i migranti sugli scogli a Ventimiglia e quelli in arrivo nelle nostre città? Per capirlo, almeno in parte, siamo andati, è andata Valentina Furlanetto in Giordania, dove il campo profughi di Al-Azatari, l'UNICEF gestisce le scuole del campo finanziate dall'Unione Europea. Se volete un gelato da Ahmed, capofamiglia di soli 13 anni al campo profughi siriani di Zaatari in Giordania, dovete aspettare il pomeriggio, perché la mattina Ahmed va dai fratelli mentre la mamma lavora nei campi. Quando arriva mia madre è il mio turno di lavorare. Allora vendo gelati ai bambini e porto poi avanti e indietro una carriola con del materiale sopra. Ahmed non va a scuola, nonostante nel campo di Al-Zaatari in Giordania, il secondo più grande al mondo dopo quello del Kenya, ci sia una scuola finanziata dall'Unione Europea e gestita dall'UNICEF. Lucio Melandri, responsabile emergenze UNICEF Giordania. Beh, queste sono scuole gestite con il Ministero dell'Educazione giordano. Le abbiamo stabilite con il grosso supporto dell'Unione Europea proprio per fronteggiare una sfida, quella di non perdere una generazione di ragazzi